Let's go! Let's go! Da Media World sono arrivati i Club Days. Entra nei club e scopri le offerte dedicate. Ad esempio, fino al 30 settembre, solo per te, TV Hisense 4K 55 pollici, tua a soli 379 euro. Approfitta nei negozi online. Media World, let's go! Let's go! Let's go! Da Media World sono arrivati i Club Days. Entra nei club e scopri le offerte dedicate. Ad esempio, fino al 30 settembre, solo per te, TV Hisense 4K 55 pollici, tua a soli 379 euro. Approfitta nei negozi online. Media World, let's go! Finalmente è tornata l'occasione di parlare di nuovo a questo microfono. E come potete sentire dal motore, che cercherò di ripulire dall'audio da questa registrazione, siamo di nuovo in macchina. Ecco, questa volta però non mi trovo di ritorno da una rievocazione storica come era nella puntata zero di questo podcast, ma mi trovo in viaggio con degli amici. Vorrei un attimo contestualizzare prima di presentarvi, insomma, le persone che sono in macchina qui con me, perché partiamo da un fatto. Il fatto è questo, che io vorrei che appunto questa trasmissione, che adesso ha anche un nome, Morfeo, diventasse quantomeno un talk show, un qualcosa che io non farò mai da solo, cioè non mi metterò mai, o quantomeno per ora il progetto non è questo, non mi metterò mai effettivamente lì a parlare da solo come faccio con le mie altre trasmissioni. No, Morfeo sarà sempre uno spazio in cui parlo con le persone e in cui cerchiamo di aiutarci a combattere il sonno, a combattere, diciamo, la voglia di dormire. E che vi devo dire, signori? Questo è un momento bello perché mi sono ritrovato finalmente a poter fare qualcosa con un socio in affari che avevo perso da tempo, un socio in affari con cui avevo iniziato tanti anni fa un progetto su YouTube, un progetto che si è interrotto purtroppo, che non ha mai visto, diciamo, un vero successo, anche se noi ci avevamo messo il cuore per fare bene le cose. Si parla della YouTube di allora, si parla di una qualità audio e video assolutamente discutibili per i canoni di oggi, ma si parla anche di sogni, si parla di momenti di cui vi racconteremo qualcosa. Cercheremo anche di sviscerare un po' i nostri ricordi, così, perché questo è un podcast assolutamente spontaneo, è qualcosa che nasce assolutamente solo per occupare del tempo, per farvi sentire la mia voce e quella dei miei ospiti assolutamente senza copioni, senza filtri, senza niente che possa in qualche modo intaccare la nostra genuinità. Certo, adesso mi sentite in una maniera un po' più impostata, ma è ovvio, questo è solamente per introdurre, ma vedrete che anche nel corso di questa puntata mi sentirete, come avete sentito nella puntata precedente, mi sentirete il più cristallino possibile. Semplicemente cerco di migliorare le mie skill da parlatore, ma più di tanto, insomma, non è che voglio metterci sopra alla mia genuinità. Signore e signori, bentornati a Morfeo. Io non so se adesso ci monterò una sigla su questa cosa, però mi piace pensare che quello che state ascoltando in questo momento sia una puntata ripulita da appunto il rumore del motore, che la sentirete con una qualità un po' più eccelsa, un po' più migliore. E qui con me c'è, ripeto, il mio socio in affari e alla guida in questo momento, e si tratta di Gianluca. Ciao Gianluca. Ciao, buonasera a tutti. Ora, Gianluca è il nostro driver per questa sera, quindi non sarò io a guidare, quindi avrò la possibilità di spostare il microfono e di farvi sentire un po' meglio le voci. E niente, Gianluca, parlaci un po' di te. Chi sei? perché sei qui e che cosa stiamo facendo in questa macchina. Ciao a tutti, buonasera, sono Gianluca, sono un amico di vecchia data di Leo, forse uno dei primi, nonché essere anche un suo vicinato, compaesano e vabbè, e via discutendo. Sono qui perché insieme a Leo siamo stati fino a poco fa a Roma, nella capitale, alla laurea del nostro caro amico. E niente, siccome noi amiamo le fatiche in stile Ercole, siamo partiti stamattina e stiamo tornando già stasera, perché domani noi lavoriamo come tutti i comuni mortali, perché domani è venerdì e si lavora. Esatto, gli ascoltatori del nostro podcast sono stati già stati, diciamo, edotti a questa pratica brutale del dover guidare la sera, la notte, per assolvere ai propri compiti la mattina dopo. Ok, quindi anche nella volta scorsa, diciamo, abbiamo registrato un episodio con il buon Luca e con il buon Andrea, che ringrazio e saluto per quella fantastica trasvolata che ci ha naturalmente provato moltissimo, ma che ci ha anche dato la possibilità di provare le nostre skill da parlatori, ovviamente. E niente, Gianluca, che cosa... Allora, innanzitutto diciamo che strada stiamo facendo e perché abbiamo scelto questa strada. Allora, premetto che siamo partiti stamattina passando per l'entroterra umbro marchigiano, quindi abbiamo fatto Spoleto, Foligno, per poi arrivare a Roma. E vabbè, non vi sto a dire tutta la strada, perché prendete Google Maps e ve la cercate, se come me e Leo partite dall'interno fermano. Mentre adesso stiamo facendo una strada che secondo me è molto... è molto bella, cioè una Roma L'Aquila, quindi passeremo per il Gran Sasso e poi scenderemo verso Teramo e da lì prenderemo autostrada che ci porterà fino alle nostre case. Insomma, lo stesso percorso che alla fine, signori, più o meno abbiamo fatto la volta scorsa. Ovviamente dall'altra volta la destinazione sì era la stessa più o meno, perché stiamo sempre parlando dell'interno marchigiano, ma partivamo da una meta decisamente diversa, perché si trattava naturalmente di Benevento, e in parte abbiamo condiviso il percorso, però naturalmente si parla di strade diverse. Allora, caro Gianluca, partiamo col dire una cosa. Io e te, come hai detto, ci conosciamo da una vita. Sì, ma da non so nemmeno quanti anni ormai, da quando ne ho memoria forse. Ecco, qual è il tuo primo ricordo della mia persona? Non mi ricordo esattamente se era alle elementari o all'asilo, però mi ricordo che c'era Leo, che comunque, essendo più grande di me di un anno, all'epoca era anche più grande di me fisicamente, e diciamo che faceva il bullo, tra virgolette, ma non era un bullismo, era una sorta di, forse di gioco, l'ho capito qualche anno dopo, e dava dei piccoli morsi. Dopo un po' mi sono stancato e per tutta risposta gli ho dato un cazzottone sul naso, e da lì è nata la nostra amicizia, quindi parte tutto da lì. Esatto, questa è una di quelle storie che tua madre ama raccontare ogni volta che mi rivede, insomma, di questa cosa che tu chiesi ai tuoi genitori, da quanto dice la buona Marisa, come affrontare il bullo che ti dava i mozzichi, e tua madre ti disse: beh, dagliele di sopra. Sì, un po', cioè, magari un'educazione un po' siberiana, però da lì è nata una grande amicizia, quindi sì, alla fine è andata bene. Diciamo, uno dei tanti consigli che ti danno i genitori, che magari sono azzeccati, dai. Sì, ogni tanto funziona però cementare le amicizie anche attraverso le angherie e le cose brutte. Certo, sicuramente 11 psicologi su 10 ti sconsiglieranno questa pratica, però... Beh, naturalmente premettiamo che né io né Leo siamo persone normali, quindi tutto quello che diciamo e facciamo è sempre gran parte accompagnato dalla follia o da eventi pragmatici. Ora, abbiamo qui un'altra ospite. Okay. Che fino a poco fa dormiva. Fino a poco fa si faceva gli affaracci suoi. Ok, e io inviterei adesso questa illustre ospite che ci accompagna, che vi abbiamo nascosto, cari ascoltatori, a farsi avanti un attimo. Ciao. La vorrei presentare, anzi preferirei che Gianluca la presentasse e poi che lei appunto ci raccontasse un po' di se stessa. Sì, lei è Lucrezia, che per il giro sarebbe anche la proprietaria della macchina. Ma che cosa state facendo, ragazzi? State parlando al telefono? No. Prego, Gianluca, continua la presentazione, non ti fermare. Niente, Lucrezia è un'artista di grosso calibro, non ancora totalmente sbocciata, e ci ha accompagnato in questo viaggio perché oggi, a detta sua, non aveva niente di meglio da fare e allora ci ha graziato della sua presenza. E niente, adesso si è svegliata e ci guarda con la faccia un po' del "ma che cazzo state a fare?". Esatto. Ora, Lucrezia, dovete capire, miei cari ascoltatori, che fa la parte praticamente di Andrea quando, cioè nella puntata precedente, ossia è il nostro terzo passeggero che si è svegliato mentre noi naturalmente avevamo già iniziato la trasmissione, quindi non si rende conto di quello che sta succedendo. Allora, Lucrezia, benvenuta a Morfeo. Questo è il mio podcast viaggiante, diciamo così. Quindi tu adesso sei non sei in onda, tranquilla. Questo andrà appunto in podcast, andrà in differita, quindi io pulirò l'audio e tutto quello, insomma, che si potrà ripulire. Cercherò di rendere il tutto ancora un po' più carino, però ti pregherei comunque di mantenere la spontaneità. Certo. Ok. E di possiamo dire le parolacce, quindi. Allora, possiamo dire le parolacce, se andiamo troppo oltre ovviamente dovrò fare qualche taglio qua e là, ma il bello della diretta, insomma. Avevo non una si gran che voglia di bestemmiare a tutto volume, però. No, vabbè, ci tratterremo da questa cosa perché non ce n'è bisogno. Lucrezia, parlaci un po' di te. Ciao, allora, sono Lucrezia, in arte Lalla Cobain, e niente, sono una studentessa universitaria che sta tentando di continuare i suoi studi con la magistrale. Sono al momento disoccupata. Gioco a rugby, uno sport bellissimo. Sono un po' in difficoltà, sinceramente, perché non mi è mai successo di ricevere un'intervista. Sono una persona sana e libera, con un compagno bellissimo che è il guidatore della mia macchina. Wow, il gossip qui nella macchina, fantastico. Okay. Storie grosse. Quanto tempo? Gianluca, sì, finalmente si è fidanzato dopo tanti anni di solitudine. E io, dopo tanti anni di delusioni, sono riuscita a trovare l'uomo della mia vita. E niente, che dire, stiamo ritornando da Roma. Stiamo ritornando a casa, finalmente, con 2 ore e mezza di viaggio. Però con una buona compagnia, ma purtroppo sono una persona stronza e difficilmente io socializzo in macchina e quindi tendo a isolarmi per pensare alle mie cose. E un'altra cosa, che cosa potrei dire? Aiuto? Domande di riserva? Beh, allora, Lucrezia, allora ti aggiorno un attimo sulla situazione. Questo naturalmente è un podcast che ho creato ai tempi per tenere svegli me e gli altri abitanti, diciamo, di una furgonata di ritorno da Benevento. Ok, ho deciso comunque di pubblicare quella registrazione col permesso naturalmente degli altri speaker, degli altri parlatori della cosa. Siccome mi è piaciuto il format, ho voluto mantenerlo, ma naturalmente, come stavo dicendo nell'introduzione, guarda il caso, cioè sì, questa è una macchina furgonata. Esatto. Quindi il caso della seconda puntata. E infatti, cioè, ci sono tante coincidenze rispetto alla puntata zero che abbiamo già registrato. E come dicevo, infatti, come ti dicevo, Lucrezia, siamo qui per parlare, per tenerci svegli, per rendere la cosa un po' più divertente, meno noiosa, certo, e per tirare fuori delle belle idee, delle belle discussioni. Abbiamo tanto tempo a disposizione, vedremo fino a quando un po' durerà la mia batteria del telefono, se poi potrò approfittare del cavetto, lo metteremo a caricare, certo. E poi, nel senso, fino a quando, insomma, ci andrà di parlare, avremo detto tutto quello che vorremmo dire. E direi di iniziare, insomma, essendo questo un podcast piuttosto improvvisato, vi chiederei usare il prequel. Allora, quello che stiamo facendo adesso, naturalmente, andrà tutto in onda, non vi preoccupate. Però questa è effettivamente la puntata 1 del podcast. Voi siete qui dentro. Sì, allora, siamo dentro un telefono. Siete dentro un telefono. non esatto. Quindi, allora, argomento a piacere. Siete preparati su un argomento a piacere, signori? No. Non siete assolutamente preparati. Gli argomenti a piacere prendevo sempre l'insufficienza. È vero, anche io, tantissimo. Oh, allora, prendiamo questa cosa. La scuola, va bene. Visto che abbiamo parlato prima con Gianluca della nostra infanzia, ok, del nostro primo incontro, allora io vorrei chiedervi, allora vorrei prima chiedere a Lucrezia e a Gianluca insieme, come andavate a scuola? E non parliamo di mezzi di trasporto, non facciamo queste battute terribili, vi prego. Potrei citare una persona riguardo a questo, ma non lo farò. Comunque, no, a scuola andava abbastanza bene, cioè ci sono stati dei alti e bassi dovuti anche a situazioni e fattori esterni, però tendenzialmente avevo il gran culo di non essere rimandata, a parte una volta proprio per forza maggiore, quindi mi rimandò con 5 in italiano, però ho avuto sempre l'estro di impegnarmi nel momento che c'era da farlo. Però diciamo che non facevo parte di quella categoria di persone che studiava e riusciva a mettersi le cose in testa. Cioè io mi metto le cose in testa solo quelle che mi interessano e gran parte delle cose non mi interessavano, per esempio la matematica. Però, vedi, il paradosso era che mi piaceva molto la fisica, che sembra strano perché dici, ah no, perché insomma è sempre una questione di logica. Sì, però era più interessante. Quindi più una cosa per me interessante, diversa, particolare, più mi ci cade l'occhio, più mi interesso e più mi informo. Più una cosa è comune a tutti, più io non mi disinteresso, cosa molto sbagliata, perché non è che si forma così la persona, ci deve essere sempre una base comune a tutti e poi allargare i propri orizzonti, insomma. E quindi niente, io a scuola andavo abbastanza bene, dai. Sposo abbastanza il discorso che hai fatto sul partire da una base comune e poi crescere secondo le proprie attitudini. E niente, vorrei sentire anche a questo punto anche Gianluca come andava lui a scuola, anche se io lo so personalmente, ma vorrei sentirlo dalla sua voce. Allora, i primi due anni sono andati un po' così. Posso solo dire che i primi due anni di scuola, perché ho cambiato scuola al secondo anno di superiori, perché sono stato bocciato. E devo dire che i primi due anni mi hanno riempito di grandi amicizie che tuttora conservo e della quale sono molto fiero e felice. E sono stati anni agitati, perché comunque ero una persona un po' agitata, lo ammetto. Poi dopo quello shock della bocciatura un po' mi sono ritirato sul morale, ho cambiato scuola e i rimanenti anni, 4 anni di superiori sono andato abbastanza liscio come loro. Gli ultimi 3 anni sono stati quelli più divertenti, secondo me. Sono partito subito a tutto. Il primo anno, dopo essere stato bocciato, sono passato con dei bellissimi voti. Il secondo anno pure. Il terzo e il quarto ho un po' tirato i remi in barca perché vivevo di rendita, ecco. E comunque anche gli anni in cui ho cambiato scuola e ho conosciuto nuove persone sono stati particolari, perché comunque ho conosciuto un sacco di gente strana, ho fatto un sacco di esperienze che mi hanno aperto gli occhi, che magari nell'altra scuola non potevo fare. Quindi avrei avuto una buona esperienza. Volete dire che studi avete fatto? Io ho fatto liceo artistico, sezione architettura. Allora, io i primi 2 anni, quelli che ho vegetato all'inizio, ho fatto il liceo classico. Mentre... Che non si direbbe mai, aggiungo. Vabbè, è un percorso... Sono parole molto, molto dure. È un percorso che ho fatto. Cioè, ho imparato una lezione da quella cosa, quindi mi piace dirlo che ho fatto quella cosa. Ma no, dal tuo aspetto non si direbbe che... Ah, ok. No, non perché sei stupido, ancora perché peggio, il tuo... Grazie. Okay. più tocco questa merda, più puzza. Ti consiglierei di eclissarti un secondo, farlo finire. Mi colpisco in testa. E invece gli altri 4 anni ho frequentato l'istituto Tarantelli del Primo Mare, che sarebbe un istituto alberghiero, per intenderci. Che è la stessa scuola che ho fatto io, tra l'altro. Sì, forse sono andato anche un po' in quella scuola perché c'era Leo, c'era qualcuno che conoscevo, quindi un po' sono stato spinto anche da quello. e dopo ho scelto il percorso di cucina e dovrei essere un tecnico dei servizi ristorativi. Lo sei, sì, confermo, perché lo sono anch'io, non nella vita, ma sicuramente ho quel tipo di diploma e di conseguenza ce l'ha anche Gianluca, perché avendo finito la scuola abbiamo seguito lo stesso percorso. Anzi, noi abbiamo due diplomi, scusa, perché noi abbiamo il diploma di qualifica professionale, quindi c'erano più vie da seguire, ad esempio, esatto. C'era quella di cucina, quella di sale, quella di cemento. Ad esempio, io e Leo, che abbiamo fatto lo stesso percorso, siamo tecnici dei servizi ristorativi. No, quello è il quinto, il diploma. No, quello è il terzo. Ah, quello è il terzo, ragione. Siamo tecnici dei servizi ristorativi, poi dopo diventiamo... Poi niente, ci diplomiamo e poi... No, perché tu in terzo diventi tipo, questa tecnico dei servizi di cucina, e poi se prendi gli altri due anni, quindi il quarto e il quinto per intenderci, diventi tecnico dei servizi ristorativi. Poi dopo tornerò a controllare a casa, perché ho i cosi, gli attestati appesi a casa lì in camera. Io invece non ho mai ritirato uno dei miei attestati, se ce li ho probabilmente li ho utilizzati come bavaglino, perché ho fatto un grosso errore. A 14 anni si fanno i grossi errori, si fanno sicuramente delle scelte piuttosto azzardate sul proprio futuro. Io ho fatto quella appunto di scegliere una scuola che non era adatta a me, non ero sicuramente adatto, e continuo a pensare che ho sprecato, almeno dal punto di vista scolastico, ho sprecato 5 anni che avrei potuto passare sicuramente ad imparare cose che oggi mi interessano un po' di più. Probabilmente il liceo classico lo avrei affrontato con molto più interesse, con gli insegnanti giusti probabilmente sarei diventato, che so, un filosofo magari. Oggi mi ritrovo a non sapere fare e sapere in generale niente, tecnicamente, però me la cavo in tutto, a modo mio. Il che vittimismo leopardiano. Ma il mio vittimismo però si confà comunque con la realtà. Io non è che mi do la croce addosso perché voglio apparire più poverello degli altri. Io mi rendo conto che quando dico che ho sprecato, dico che effettivamente è una cosa che avrei dovuto fare meglio io. Quindi non sto incolpando nessuno, non sto incolpando la società, non sto dicendo che appunto qualcuno poteva fare di me qualcosa in più, ma è ovviamente stato un mio errore di gioventù, un errore di gioventù che sto pagando, perché a 14 anni, ripeto, non si capisce bene cosa vuoi fare. Certo, tanti hanno le idee chiare e partono subito sparati con i propri obiettivi, ma io personalmente sono sempre stato uno che si è sempre goduto la propria età. Non mi sono mai sentito o mai voluto sentire più grande o più piccolo dell'età che avevo. Quindi il mio incolpare me stesso non è un incolpare che mi porta ad odiare me stesso. Cioè, so benissimo i miei limiti. Il mio limite appunto era quello di aver avuto 14 anni in un momento di una decisione cruciale della mia vita, una decisione che appunto ho pagato con 5 anni di scuola, che mi avranno sicuramente formato meglio il carattere, che sicuramente non è scontato, mi ha aiutato, mi ha aperto gli occhi su tanti aspetti della vita sicuramente, ma che non mi ha dato quella formazione di cui forse oggi sento il bisogno e che solamente con un grande sforzo potrei effettivamente recuperare. Ma basta con questi discorsi piuttosto tristi, devo dire, e passiamo ad un argomento un po' più leggero, se vogliamo. Allora, io mi vorrei fare un po' i cazzi vostri. Vai. Vorrei chiedervi il vostro primo incontro. Qual è stato? Il mio Lucrezia. Ma il nostro? Sì, Lucrezia. Al campo? Da rugby? Il campo di rugby. Cioè, l'ho guardato, ho fatto... Cioè, vabbè, contestualizzatemela un attimo. Cioè, allora, rendete questo racconto interessante. Allora ve lo dico io, perché sono l'ultima arrivata dal campo a rugby, diciamo. Bravo. Cioè, nel senso... Bravo. Prima è arrivato Gianluca e poi sono arrivata io. Allora, diciamo che quando sono entrata in questo mondo fantastico che si chiama rugby, e entrando nel dettaglio, Banca Macerata Rugby, nonché la vecchia ARM, diciamo che Era un venerdì, mi ricordo, perché era tipo il secondo allenamento. Sì, era il secondo allenamento, era un venerdì. E tipo stavano uscendo i ragazzi per fare acqua. E mi ricordo lui che portava, se non sbaglio, la maglia dei Barbarians. E era tipo stanchissimo perché aveva fatto tipo, non so, un allenamento durissimo. Era tutto sporco e sudato, questi capelli sciolti. Io l'ho guardato, ho fatto oh mio Dio. Cioè il mio è stato proprio oh mio Dio, ma quanto cazzo è bello, bellissimo, impossibile. Confermo, Gianluca è veramente bello. Thomas Millian de Macerata nella serie. E perché sì, stai zitto. Io sono occupato. E niente, praticamente è successo che, cioè, diciamo che all'inizio lui mi ignorava parecchio perché era un po' gay, quindi sto scherzando, mi ignorava, insomma, non è che mi aveva notato granché. E di conseguenza, vedendo lui che faceva un po' il sostenuto, che se lo tirava, di conseguenza anche io non è che me lo filavo tantissimo. Però tutti quanti, panà, perché lui si fa chiamare panà, non che perché fa il fornaio, insomma. E niente, praticamente passa un po' di tempo, io però mi interesso di un'altra persona che poi si è risultata un totale fallimento di carattere. E diciamo che di punto in bianco, poi è stato un caso, perché ho aderito al servizio di sicurezza a Camerino per un talent show e c'era anche lui, e quindi ho dovuto prendere il suo numero di telefono perché dovevo tornare a casa con lui, perché passava per quelle zone. E nella sostanza niente, praticamente da lì diciamo che già avevo il suo numero di telefono e la simpatia già era cresciuta col tempo, perché piano piano, certo, frequentando la club house, frequentando le serate, piano piano lui era presente. Specifichiamo cos'è la club house. La club house praticamente sarebbe il luogo dove le squadre, dopo aver fatto 80 minuti di massacro, si congiungono e fanno il terzo tempo, cioè mangiano tutti insieme. Praticamente niente, diciamo una sala comune, una sala grande per mangiare tutti insieme, poi ubriacarsi soprattutto. E va bene, e diciamo che dopo un po' abbiamo cominciato a scriverci su WhatsApp, ma poi all'inizio erano per le stronzate del più del meno. Il più ha cominciato questo rapporto dopo Montelago, dopo che avevo ricevuto un'ennesima delusione da parte della stessa persona con cui mi ero frequentata. Diciamo che lui prese la palla al balzo e io invece ero soltanto contenta di aver fatto amicizia con lui. Com'era la storia che non mi trovavi su Facebook perché non sapevo? Sì, perché non sapevo il tuo nome, ma poi sei capitato per caso, cioè t'ho trovato per caso, è stata una cosa strana. Questo è successo prima che te ci frequentassimo. Esatto. Notavo che ogni tanto lui buttava un like, sai com'è quando si traffica con i social, ormai è diventata una cosa abbastanza comune. Ma sì, il like tattico. Il like tattico, esatto, questo pezzo di me che ci sono. E quindi niente, alla fine aspetta, io mi sono persa, aiuto. Ok, abbiamo cominciato a scriverci più del meno dopo Montelago, così. E dopo un'ennesima vicenda, che poi lì venne a sapere che lui stava cominciando a provarci con me, e io stronza, perché, e sottolineo stronza, non avevo capito le sue intenzioni, quando io invece vedevo una normalissima amicizia. Parentesi, il caro Gianluca c'ha l'approccio amichevole, quindi era palesemente confondibile. Sminuisco. È la verità, perché tu fai l'amicone, tutti ci ho avuto la conferma anche da fattori esterni me l'hanno detto. Chiusa parentesi. E detto ciò, piano piano abbiamo continuato a scriverci più di meno, perché poi dopo che è successo questa vicenda, la terza vicenda, diciamo, o la seconda, boh, non lo so, dopo Montelago, insomma. Non mi scriveva più, e lì avevo capito che c'era qualcosa che non andava. Pensa che te ripensa, alla fine gli scrivo io inventandomi una scusa palese, proprio più palese non si può, mi risponde e continuiamo a scriverci fino a che una sera, io a quel tempo non avevo la patente, un amico nostro si è offerto ad aspettarci per stare un po' insieme. Poi questo mio amico mi doveva accompagnare a casa perché abita vicino a casa mia. Ci ha fatto uscire un paio di volte, pim parapam, e poi la terza volta ha tentato di darmi un bacio che ho schivato come bravissimo, come un non lo so, una scheggia, perché avevo capito insomma le sue intenzioni da porco. E cioè, la storia della mia vita che prendo pesci in faccia praticamente questa, cioè, che cazzo sarebbe questa storia? E alla fine, quando mi ha portato a casa, ci siamo scambiati un bacio ed è lì nata la nostra storia. Dopo un mese gli chiedo: ma cosa siamo io e te? Perché mi ero rotto i coglioni a dire: no, sai, non stiamo insieme, ci stiamo frequentando. Lui mi rispose con un tranquillissimo e pacato: siamo due stronzi. Nel giro di 5 ore mi rifà la domanda. Mi fa: ora lo chiedo io a te, che cosa siamo? E io, con voce ancora più pacata, ti ho risposto: due stronzi, che cosa vuoi che siamo io a te? E da lì abbiamo capito, insomma. E da lì ci siamo messi insieme. Bene, abbiamo capito, insomma, che siamo due stronzi. Allora, stronzo, dici dal tuo punto di vista com'è andata? Dal mio punto di vista è stata un po'. Tutto gay. Beh, è stata una cosa assurda perché. La mia è sempre stata con quelle ragazze, parlo della mia vita in generale, con le ragazze, sempre avuto grandissimi due di picche e alla fine avevo etichettato Lucrezia come l'ennesimo due di picche e me ne stavo anche un po' dimenticando della cosa. Poi dopo, come ha detto Lucrezia, si è riaccesa un po' la cosa, abbiamo visto tanti interessi in comune, tante cose, cioè, discutendo, tante cose che ci accomunavano, magari tanti generi musicali, tanti film, lo sport, anche un po' il dolce far niente che a volte ci accomuna. E da lì dopo siamo entrati più in intimità e ormai stiamo insieme da quasi 3 anni, quindi non esagerare. Quanto? 2 anni e 6 mesi? 2 anni e mezzo. 2 anni e 5 mesi. Ma sì, è già, siamo arrivati adesso, no? Qualcosa del genere, comunque. Si è perso il conto un attimo. Che paradossalmente il famoso aperte virgolette mesiversario chiuse virgolette è il 24, oggi è il 23, quindi a mezzanotte festeggeremo il mesiversario. Oh cazzo, è vero! Adesso mi sono accorta! Ma ti sono dico, ma quanto manca? Sono le 22:22 con 2 gradi, il 23:01, 20:20. Oddio che ansia, ragazzi. E niente, stava. Devo ammettere che era un periodo che non. Era un periodo un po' un malinconico in cui non neanche cercavo più di trovare un approccio con una ragazza, ok. E con Lucrezia mi sono un po' ritirato sul morale perché comunque lei ha un carattere così espansivo, allegro, è un tornado, cioè, ti entra nella vita e fa il delirio, quella è Lucrezia. E niente, da qui dopo sono 2 anni e 5 mesi che ci sopportiamo, quindi ancora non sappiamo come andrà a finire, quindi okay. Andiamo avanti così. Gianluca invece è entrato di soppiatto nella mia vita. Sì, sono sempre molto stealth. Sì, era tipo un ninja che se nascondeva, se nascondeva a forma di siepe, camminava piano piano su questo bosco. Vabbè, lui ti ha descritta come un tornado, tu come descriveresti lui? Gianluca come l'uomo invisibile, perché lui non si è fatto capire fino all'ultimo e questo è stato il mio grosso dilemma, perché io vedevo come, io ho riso e l'ho preso in giro dicendo, ci ho avuto conferma da fattori esterni che insomma, è una persona che fa sempre, tra virgolette, l'amico, quindi magari tipo le volte veniva travisato, e io stessa l'ho travisato e me ne pento amaramente, perché magari tipo sarei stata una persona più attenta a certi comportamenti. Io lo vedevo come un amico, perché ci avevo fatto poi amicizia, ma alla fine di tutto, invece, quando ho capito le sue intenzioni, signore grazie, poi direi ho detto ok, aspetta, qui c'è qualcosa. E, ma la cosa bella tra me e lui è stata che non solo avevamo moltissime cose in comune, ma soprattutto quello che è nato tra di noi non è stato quell'amore impetuoso, sai, come tipo un colpo di fulmine, che io personalmente tutti i colpi di fulmine che ho avuto sono stati dei clamorosi fiaschi. Questo qui è un amore che si è costruito, una cosa che è partita dalla base e si è costruita pian piano, e ancora, diciamo, siamo all'inizio, ma la base è solida, perché abbiamo molti punti in comune, siamo due persone che ci diciamo in faccia le cose, i nostri problemi, ma soprattutto i problemi che c'è tra di noi, soprattutto questo, non è che ce lo nascondiamo, quindi non abbiamo rancore, non portiamo. Poi io personalmente sono una persona che si incazza e lo dice subito quello che pensa, non è che ci pensa due volte, e per quanto può magari dar fastidio o magari può essere un po' scioccante, è anche è curativo per la persona sbroccare immediatamente, perché te la liberi subito, perché ammucchiare porta soltanto a innalzare un muro che non permette più poi di comunicare con l'altra persona, e non riesci più magari a trovare quel punto di incontro che all'inizio lo trovavi, perché era l'inizio. Invece noi l'abbiamo sempre abbattuto, il primo sassolino che si presentava già fuori, dicevamo quello che c'era, che andava e che non andava, insomma. È questo che bisogna fare in una coppia, perché se no non c'ha senso niente. Gianluca, che dici? Ah, che la penso uguale, cioè, tanto quello che dico, grazie, la verità, perché tante volte non ce ne facciamo magari a dire la nostra, e spesso questo porta a inevitabili litigi. Però chiarirsi subito è meglio che rimuginare, perché non serve proprio a niente. Scusate un attimo, sto facendo un imbocco, un cambio di corsia, quindi non volevo schiantarmi. Ok, e comunque essere subito cristallini e trasparenti è la cosa migliore. Io lo faccio con tutti, cioè penso di essere una persona più trasparente, e mi comporto con tutti allo stesso modo, perché non sono capace di mentire o dimostrare di essere una persona che non sono, perché non ho questa qualità. Cioè io so così, se te piace va bene, se no amen, cioè. Quindi è un po' la mia politica di vita, e mi sono ritrovato molto nel rapporto con Lucrezia. Quindi adesso, visto che noi abbiamo parlato del nostro rapporto, vabbè, non c'è sta Arianna, ma gli farai l'intervista a casa, parla del tuo rapporto con Arianna. Devo fare il mio sproloquio sul mio rapporto? Certo, cazzo. Allora, prima di farlo vi comunico che a voi non me ne frega un cazzo, ma a me sì, che siamo entrati in Abruzzo, abbiamo lasciato il Lazio, ma in realtà il confine lo abbiamo oltrepassato secondo Google Maps proprio in questo momento. Ma che vi devo dire, signori? Io nei miei podcast non ho mai parlato effettivamente del mio rapporto con la mia attuale fidanzata Arianna, che saluto. Ciao Ari. Lei probabilmente non ascolterà mai questo podcast, ma perché lei non è persona da podcast. Però vabbè, dai, siamo in un'ottica di confidenze, posso permettermi di dire quello che penso. Beh, devo dire che mi ritrovo parecchio comunque nella vostra filosofia, ragazzi, perché anche con Arianna, che è tutto tranne che una persona poco chiara nelle sue intenzioni, nel suo modo di pensare, di vedere la vita, mi ci ritrovo parecchio nel vostro modo di fare, perché effettivamente con lei abbiamo costruito un rapporto piuttosto sincero, in cui veramente ci sono praticamente nessun lato oscuro, in cui sia io che lei, diciamo, non abbiamo problemi a dire quando una cosa non ci piace. ed è piuttosto liberatorio quando appunto hai la possibilità di dire veramente quello che pensi, ti puoi veramente sfogare. Certo, devi mettere in conto che alle volte non fa piacere ricevere delle critiche, non fa piacere appunto sentire che non sei apprezzato magari in un aspetto che tu pensavi che non fosse problematico, però il fatto che qualcuno te lo dica, che non abbia problemi ad ammetterlo, è sicuramente ti dà una mano, ti aiuta a crescere. E io non penso che potrei trovare al momento qualcosa di meglio di questo tipo di relazione, che è assolutamente perfetta da un certo punto di vista, ma anche in totale, se vogliamo. Io mi sento piuttosto libero di dire quello che penso. Certo, io sono uno di quelli che la comunicazione cerca sempre di regolarla. Non mi piace, per esempio, alzare la voce, non mi piace esplodere, veramente. Cerco di buttarla più sullo scherzo, di fare una battuta rispetto invece di appunto magari sclerare e incazzarmi. Non sono mai stato una persona che ama litigare. Questo è un difetto, non è sempre un pregio, perché alle volte il riuscire appunto ad avere il coraggio, se vogliamo, di litigare con qualcuno che non ti sta soddisfacendo, ti permette anche di bypassare tutti quei filtri che altrimenti metti quando appunto non vuoi magari esasperare una situazione. Io sono particolarmente bravo a non esasperare le conversazioni, a rendere sempre il tutto il massimo della tranquillità, e però con Arianna è praticamente impossibile, perché lei è la prima persona a tirarti fuori tutto quello che hai. È una persona con cui effettivamente non puoi fingere, ma anche con lei sono riuscito a costruire un rapporto in cui anche i miei momenti in cui magari qualcosa non va, io cerco di trasformarli in un momento in cui si ride, si scherza, ma poi magari ci si può pensare, si può riflettere sopra, perché appunto io preferisco questo approccio, preferisco ridere, preferisco che qualcuno ci arrivi comunque con una risata a comprendere qualcosa. Sono molto stand-up comedian in questi versi, cerco di puntare più su questo aspetto che sull'intimidazione, sul voler diciamo imporre la mia volontà. E ripeto, alle volte imporre la volontà su qualcuno alle volte è necessario, serve un grande coraggio, serve una grande padronanza di questo modo di fare, però io sono fatto così, sono un po' più tranquillone. Gianluca, penso tu lo possa confermare. Anche io sono molto così. Se no non sareste migliori amici. Esatto. Però Deo è sempre stato quello molto più calmo. Cioè, nel senso, io ho il problema che riesco a essere una persona molto calma, ma ho delle cose che mi fanno accendere, tipo Tasmania. Quindi impazzisco in una maniera. Tipo l'alcol. No, ma proprio tipo certe cose mi fanno incazzare proprio talmente veloce che non sembro quasi io. Concordo. Però riesco con il mio animo comunque calmo a ritirare dentro tutte le varie. Diciamo che in questa macchina l'unica agitata in cui sono io. E lei comunque è sempre uno di quelli che ti aiuta anche se sei agitato a portarti la calma e tutto quanto. Io ho una mia amica che mi dà una carezza sulla testa quando mi incazzo in campo, io mi placo. Perché a me non serve urlare, perché se uno mi urla contro divento una bestia, cioè mi incazzo ancora di più. Se invece uno magari mi prende con la calma, mi spengo subito, perché è un attimo, l'incazzatura mia è un attimo, poi mi si passa, poi dipende dalla gravità della situazione naturalmente. Una cosa più grave un attimo mi ci vuole, ma se è una sciapata... Ecco, questa è una delle cose che secondo me esce fuori meglio quando appunto puoi parlare spontaneamente. Per questo a me piace fare questo podcast, anche sapevo che mi piaceva già nel momento in cui stavo facendo la puntata zero, è quando appunto puoi un attimo confrontare gli approcci nelle varie cose della vita, per dire, siamo in qualche modo riusciti a tirare fuori pregi e difetti di due modi di fare che sono praticamente agli antipodi. Da una parte c'è quello estremamente diplomatico, dall'altro invece c'è quello estremamente sincero. E per l'appunto sono entrambi dei metodi che possono avere i loro contesti in cui funzionano meglio, mentre in altri sono forse un po' fuori luogo e possono incontrarsi con degli ostacoli che difficilmente possono superare. Io vorrei un attimo ricordare con voi un'altra cosa, cambiando completamente discorso. Abbiamo detto, abbiamo degli artisti in questa macchina. Sì. Ok? Io vorrei, a questo punto vi faccio questa domanda, mi è venuta in mente proprio adesso, completamente, cambiamo completamente argomento. Vorrei che mi parlaste della prima vera opera d'arte che secondo voi avete mai creato nella vostra vita. Però non vi dico la più significativa, vi dico la prima. Poi se volete aggiungere la più significativa per ampliare il discorso potete farlo. Chi vuole iniziare? Ma da quando eravamo piccoli? La prima che ti ricordi. Cioè la prima cosa che secondo te nella tua vita può essere definita un'opera d'arte. Quella che tu definisci un'opera d'arte. Io ce l'ho, sai. Io pure. Ero piccola, ho avuto 12 anni. Beh, chi vuole iniziare? Vai tu, Giacomo. Io ho un'opera che, vabbè, non ho, premetto che non l'ho fatta io, ma sono quelle opere, vi spiego. Quando ero piccolo avevo preso la passione di lavorare e ritagliare il compensato, sai, ti fai un disegno sopra, poi lo ritagli, passi un po' di carta abrasiva, poi lo colori, è una cosa che mi piaceva molto, sai, lavori col seghetto lì, anche un lavoro di fino. E mi ricordo che presi questo disegno di un petti rosso o qualcosa del genere e lo trasposi sul compensato con la carta carbone. Poi cominciai a tagliarlo piano piano e lo lavorai tutto quanto bene con la carta abrasiva, poi lo passai una mano di fondo, con la tempera lo verniciai. L'ho pitturato in maniera molto, cioè da bambino, cioè, non sono mai stato un professionista in questo, però quella forse è stata una delle prime opere d'arte sempre tra virgolette, perché è una cafonata tremenda se non la vede. Vorrei ampliare il discorso, cioè, per opera d'arte però intendo qualsiasi opera d'arte che voi potreste aver creato nella vita. Io quella forse la ritengo una delle prime opere d'arte. Perfetto. Che di cui ho memoria, forse ne ho fatte altre, ma sono talmente terribili che non me ne ricordo proprio. Ce n'è una più significativa delle altre, oltre a questo lavoro con l'uccellino? Ma questa era significativa perché comunque era fatta a casa di mia nonna, con erano ancora vivi tutti e due i miei nonni. Era vivo il fratello di mio nonno, che comunque mi ha dato un po' la passione di lavorare in legno. Significativa per quello, un po' per i ricordi che porta. Prima di questa non so se ce n'è una ancora più significativa. Sto pensando, ma non me... adesso devo un attimo riflettere, non mi viene niente in mente. Allora, mentre ci pensi, allora passiamo all'opera d'arte di Lucrezia, vai. Allora, io quella che mi ricordo, ero piccolina, cioè avevo avuto 11-12 anni, avevo fatto un paesaggio che invece ero proprio impegnata tantissimo e il professore si era accorto che mi stavo scervellando per riuscire a fare una parte di giardino che era un po' complessa. E niente, praticamente avevo trovato il modo per farlo a modo mio e il professore aveva apprezzato tantissimo, e vedendo questo professore che aveva apprezzato e l'aveva portato dal preside, insomma, guarda questa ragazza, che non era, cioè, a riguardarlo mi sono messa a ridere, che guarda qua la gioia che avevo per questo quadro semplice, eppure per me era proprio l'opera d'arte più bella in assoluto. Io questo qui è il primo ricordo che ho di questo quadro. Perdonami, poi, cosa rappresentava? Praticamente noi dovevamo fare una parte del giardino che stava vicino alla nostra scuola media a Montelupone, il Parco Franchi, e io scelsi una parte dove c'era un muro, insomma, perché è circondato, e un muro con sopra con un po' di alberi e un ingresso che praticamente porta, se non sbaglio, a una ludoteca. E io feci quella parte lì perché era quella che mi interessava di più. Segnale GPS interrotto. Ok. E il secondo che mi ricordo che anche quello è stato molto difficile, e riconfermo che anche quello è stato veramente una lotta per farlo, era la Monna Lisa di Leonardo. Vi giuro, guarda, lo rifeci tanti anni dopo, che venne quasi uguale, nel senso il disegno, non i colori, perché era stato solo un ritratto minuscolo a matita, e guardai quel quadro e dissi: cavolo, anche lì ho fatto, che quello lì era veramente una gioia averlo fatto. E ti dico: oh, guarda, sono riuscita a fare la Monna Lisa. Sembrava un Picasso, non sembrava una Monna Lisa. Però era la sempre tua. Che era la mia Monna Lisa, e quindi era una vittoria enorme per me. E poi piano piano questa qualità nel dipingere, nel disegnare, l'ho coltivata con gli anni, fino adesso, fino a tuttora. Così. Molto bene, molto bene. Nel frattempo io ti frego un attimo il cavetto per sicurezza. E no, bella esperienza questa qui, insomma, che ci raccontano cose sicuramente importanti. Racconta pure la tua, a fondo, no? Racconto la mia. Dunque, innanzitutto vedo se il telefono vuole caricarsi. E sì, da te funziona, da me no, perché probabilmente io sono il più stronzo qui dentro. Ma andiamo avanti, che cosa stavamo dicendo? La tua prima opera d'arte. La mia prima opera d'arte. Allora, io mentre pensavo di farmi questa domanda, già avevo in testa la mia risposta. Una risposta che riguarda Gianluca. Perché, dunque, dovete sapere, signore e signori, perché io e Gianluca, come vi dicevo appunto all'inizio di questa puntata, lui l'ho recuperato non solo, diciamo, in questi viaggi così che facciamo, non l'ho recuperato solo dal punto di vista così di mero viaggio, ma l'ho recuperato anche in questo caso, mentre stiamo producendo questa cosa, questo contenuto che andrà online, l'ho recuperato anche sotto questo aspetto, perché io e Gianluca ai tempi aprimmo un canale YouTube, di cui abbiamo parlato anche all'andata, un canale YouTube molto piccolino, che proprio non ha raggiunto mai veramente la cinquantina di iscritti, se non sbaglio, proprio era rimasto piccolo nella YouTube di allora, che già era grande, contava veramente dei numeri veramente allucinanti in confronto al nostro, in confronto a quelli che potevamo fare per ogni video, che praticamente erano visualizzati solamente da noi e da poche altre persone che venivano a sapere in maniera completamente indiretta che noi esistevamo sul web. Il più delle volte erano amici e parenti che ci chiedevano che cosa cacchio stessimo facendo, oppure erano persone che abitavano nei pressi dei luoghi in cui registravamo. Una su tutte è un episodio in cui avevamo registrato mentre Gianluca stava facendo benzina, anzi stava facendo nafta, e un ragazzo appunto che abitava nei pressi della pompa di benzina ci ha riconosciuto attraverso il video. Non ho idea di come sia entrato in possesso di quel video, misteri appunto della rete, ma non è di questo video che io volevo parlare. Il canale si chiama Panda Berserk, difficilmente lo troverete online. No, c'è ancora The Panda Berserk, sì, ma probabilmente essendo quel canale fermo da anni, avevamo giusto qualche anno fa ricaricato qualcosa fatta con il telefono, ma qualcosa di molto sporadico, non era neanche un vero video come l'avevamo fatto, insomma, come avevamo fatto agli inizi della nostra carriera sul tubo. Potrete vedere anche un giovane Vargion con i capelli corti, tra l'altro non così corti, ma corti comunque rispetto a quelli che sono oggi, quindi potete capire quanto ero piccolo, veramente quanto eravamo piccoli. E ci sto arrivando all'argomento, non vi preoccupate. Allora, cos'era il nostro canale? Noi conducevamo in quel canale un programma che si chiamava About the Riders, che è un titolo che non significa assolutamente niente, suonava bene, è un po' tipo Pretty in Cool Next Future, alright, esatto, come direbbe buon Adrian, esatto, come direbbe Adrian, esatto. E che cosa facevamo? In pratica io ero solito molto spesso accompagnare Gianluca nei suoi viaggi, così, per le sue commissioni, quando io non avevo niente da fare, che avevo la possibilità appunto di accompagnarlo nelle sue scampagnate, salivamo sulla sua Panda e andavamo in giro per, che so, andavamo a trovare i suoi amici, che poi sono diventati anche i miei amici a quel punto. Andavamo a fare appunto commissioni in giro e io mi portavo la mia telecamerina che avevo comprato ai tempi, perché avevo anche un mio canale personale in cui provavo a mettere recensioni di libri, in particolare della saga di Emmerich. Quei video non esistono più. Oggi quel canale lo utilizzo principalmente per massimizzare gli ascolti del podcast, quindi lì sul canale Vargheon potete trovare, diciamo, gli inizi, proprio qualche video forse è rimasto, però quelli delle recensioni non li trovate più. Li ho cancellati perché riguardandomi alcuni sì, quelli vecchi vecchi. C'è rimasta giusto la recensione di Pirati dei Caraibi, perché a quella sono particolarmente affezionato, perché ci ho veramente impiegato tantissimo tempo per farla. Però dicevo, Abaddon Riders era carino secondo me, perché eravamo noi che facevamo esattamente quello che stiamo facendo adesso, parlare del più e del meno di argomenti specifici in video che duravano una ventina di minuti, comunque non erano lunghissimi, però per la YouTube di allora probabilmente erano video un po' troppo lunghi, erano video un po' troppo incasinati. Diciamo che il nostro parlare era più adatto a un podcast come adesso che a un video di 10 anni fa, perché parliamo di 10 o 12 anni fa, senso non è che parliamo di esattamente qualche giorno. Poi dovete considerare, ascoltatori e ascoltatrici, che eravamo veramente alla mercé della qualità che la Panda poteva offrire, quindi il motore che faceva un rumore della madosca, una luce insufficiente, quindi era anche difficile riprendersi in maniera buona senza appunto accecarsi con la lucina interna della telecamera, una telecamera che non è che ci riprendesse in maniera egregia e non ci faceva proprio e non riprendeva il nostro audio in maniera esatto. Vabbè, comunque, nel senso, per dire che se voi nella curiosità vorrete cercare il nostro canale per vedere chi cacchio eravamo, come siamo fatti, vi renderete conto che si tratta della YouTube di allora. Quindi, premesso questo, eravamo anche magri, tra l'altro. Eravamo anche magri. Però vorrei, dopo questo lunghissimo preambolo, però ci tenevo a fare questo lungo preambolo, vorrei parlarvi dell'opera d'arte che voglio citare. E fu un giorno, secondo me, molto bello. Mi divertì veramente un sacco, perché ho dei ricordi veramente molto carini di quella giornata, perché dopo un po' di tempo che non pubblicavamo più episodi su quel canale, decisi, insomma, di proporre a Gianluca una cosa diversa. Mentre nelle prime puntate noi semplicemente parlavamo di argomenti, del più e del meno, insomma, ci divertivamo così in maniera piuttosto spontanea, decisi, insomma, ma perché non facciamo una cosa un po' più articolata, un po' meglio rispetto alla nostra media. Lui accolse con entusiasmo la mia idea e mettemmo su un piccolo cortometraggio. E allora, io adesso in podcast, quando ascolterete questa trasmissione, vi metterò il link al canale The Panda Berserk, vi metterò anche il link diretto al video di riferimento, perché voglio che questo video venga visto, così che, perché ripeto, ci sono molto affezionato, secondo me è un bel video. Capito adesso cosa stai parlando. Quindi, prima che io vi racconti nel dettaglio che cos'è questo video, io vi invito a stoppare questa puntata, a recuperare questo video e poi ritornare qui per parlarne assieme. Allora, vi racconto questo video. In pratica, mi era venuto in mente di fare questo cortometraggio, un cortometraggio assolutamente semplice nel suo messaggio, molto forte. E nel cortometraggio voi potete vedere all'inizio che parte il video, ci siamo io e Gianluca che in giacca e cravatta praticamente ci appoggiamo sul cofano della macchina, beviamo, si vede che noi beviamo della birra, così, cioè, ci mettiamo a bere, così, a parlare e raccontiamo di finte sbornie, ma neanche così finte in realtà, però raccontiamo di serate. Sì, praticamente improvvisiamo, veramente raccontiamo delle finte serate, va bene, delle sbronze epiche, secondo, insomma, me la nostra improvvisazione è migliore di quella di Nicolas Cage in tanti altri film. Probabilmente lo è. Che parlavo sempre di Nicolas Cage, perché cazzo. perché Nicolas Cage se lo merita. Andate a vedere i leggings di Nicolas Cage su Wish, mi raccomando, e su AliExpress, su Amazon, insomma, li trovate ovunque. I cuscini, i cuscini con le pagliette di Nicolas Cage, bellissimi, che una mia amica ce l'ha, poi una amica di Lucrezia ce l'ha. Ora, tornando a noi, ci siamo noi che raccontiamo queste nostre finte sbornie così, e magari avremmo potuto accorciare un po' di più quella parte, però vabbè, ci sta, secondo me introduce un po' che tipo di personaggi siamo, rivisto con gli occhi della maturità. Allora, per me che l'ho fatto, che mi riguardo la mia interpretazione, è un po' come definiremmo oggi un po' cringe, usando questo inglesismo, che però rende piuttosto bene l'imbarazzo che ti genera il vedere qualcosa fatto da altri. Solo che quando parli di imbarazzo fatto da te stesso del passato, non so se si può definire cringe, però mi immagino che possiate in qualche modo provare questo sentimento. Ma tornando a noi, nel video appunto ci siamo noi che parliamo di queste finte sborne. A un certo punto però che succede? Perché niente, passa una macchina non era voluta, però abbiamo in quel momento, mentre passava la macchina, ho deciso di stoppare quella registrazione, ho cambiato inquadratura e la scena si sposta, più che altro succede che il mio personaggio dice a quello di Gianluca appunto: senti, mi accompagni a casa, anzi no, portami da un'altra parte, ti dico io dove. E lui che dice: ma no, dai, ti riaccompagno a casa, che so ste storie, dai, non ci metto niente a riaccompagnarti a casa. E lui, e il mio personaggio, gli risponde: ma no, tranquillo, tanto che passo a trovare mio nonno, insomma, cerca un po' di dissuaderlo dal proporgli questa cosa. Salgono in macchina, partono a tutta birra, ci sono un paio di inquadrature che secondo me sono piuttosto carine, che fanno vedere la macchina che va a tutta velocità sulla curva. C'è la spesa, quella scena l'abbiamo ripetuta non so quante volte, ma non tantissime in realtà. Ma poi faceva freddo, non so perché, era un periodo che faceva freddo, stava un gennaio, un febbraio, non mi ricordo quando l'abbiamo pubblicato. In realtà non ci ho messo neanche troppo a montarlo, in comunque era uno di quei sabati pomeriggio che non avevamo veramente niente da fare. E oh, attenzione, mi è arrivato il bonifico. Olè! Hanno pagato Lucrezia benissimo. La tipa mi è venuta da sbatte. Andiamo avanti. Praticamente Voto come un riccio. Parleremo anche di lui più tardi, parliamo anche di lui. Che succede? La scena si sposta appunto, dopo aver fatto vedere questa sgommata della macchina, si sposta dentro l'automobile, c'è la spensieratezza, i due ragazzi che ridono. Gianluca riprende a dire: ma dai, ti riaccompagno a casa io, non ti preoccupare. Lui dice: no, non ti preoccupare, fai questa strada, vai dove ti dico io. E lui dice: va bene, dai, ti riaccompagno dove dici tu. La scena si sposta in una discesa, la macchina frena, appunto, parcheggia. I due ragazzi appunto si salutano nella macchina, si vede da fuori la scena che i due ragazzi appunto si abbracciano, si salutano così. Poi stacco sull'inquadratura su Gianluca che ride, poi appena smette di ridere spegne l'automobile. Appena spegne l'automobile si sente la mia voce fuori campo che dice: ci vediamo fratello. Lui smette di ridere, appena sente la mia voce si gira verso di me. La telecamera torna di fuori all'inquadratura di prima che riprende l'intera macchina, e dentro l'automobile non si vede più la mia figura, ma si vede solamente Gianluca. Parte praticamente una canzone degli Opeth, molto triste, adesso non mi ricordo qual era, però è una canzone bellissima. E probabilmente la metterò alla fine di questa puntata, perché è veramente bella come canzone, ci sta. Ci sta. Adesso ci fermiamo fra poco. Sto per morire. E praticamente, mentre la canzone va avanti, insomma, diventa sempre più triste, più così, più malinconica. Gianluca esce dalla macchina, si rende conto di dove si trova, neanche riesce a varcare il cancello perché si trova dentro un cimitero. L'inquadratura appunto mostra giusto dall'interno del cimitero, inquadra una lapide, un paio di lapidi così, e Gianluca che guarda verso il fuori. Poi il nostro cimitero è molto molto classico, molto all'antica, esatto, ci sono le classiche tombe comunque dei primi del Novecento, con delle belle lapidi di quelle lavorate benissimo, gli angeli, cioè addirittura una statua con un angelo molto bella. È un bel, cioè, un cimitero, però sono uno di quei vecchi cimiteri di paese. Esatto, umile. Con i cancelli in ferro battuto, ancora poi a fianco al nostro convento dei frati. Esatto, l'ex convento dei frati, molto bello. E quindi ha questo gusto gotico, però allo stesso tempo la luce che siamo riusciti a catturare con quel video, secondo me era perfetta, cioè davvero. Io non ho usato filtri perché naturalmente non sapendoli usare, però col senno... non sapevamo neanche l'esistenza dei filtri. Sì, sì, no, lo abbiamo fatto assolutamente con tutta la luce naturale possibile, cioè, però secondo me nella sua bruttezza, nella sua amatorialità, io ripenso a quel video. E poi il video finisce naturalmente con un'inquadratura che forse avrei potuto anche evitare, però mi sembrava una giusta conclusione, con una ripresa praticamente sopra la croce che è a terra, fatta tipo stile mosaico, praticamente con i San Pietrini che introducono all'ingresso del cimitero. Sopra questa croce praticamente ci sono appoggiate due bottiglie con le etichette strappate. Una bottiglia è intatta, una bottiglia invece è rotta. Nota a margine, quella bottiglia rotta poi ovviamente l'abbiamo rimossa esattamente come l'abbiamo rimosso quella intera, però ci manteniamo la pulizia, sì, nel nostro piccolo paese. Sì, comunque non ci sembrava il caso di tenere le cose sporche. Poi per fortuna lì vicino c'era giusto il cestino che serviva appunto per smaltire il tutto, però per quella scena ci serviva di rompere una bottiglia, ce n'era una rotta e una appunto intatta. Non abbiamo voluto insomma aggiungere altro al video, che secondo me era perfetto così com'era. E quello, quando l'ho visto finito, quando ho finito di montarlo, e io ero veramente contento di quel video. Cioè, sul serio, non pensavo di riuscire a catturare, con i mezzi che avevo, con il linguaggio che volevo appunto portare all'interno di questo video, non pensavo di riuscire a catturare questa atmosfera, questa cosa. Sicuramente con la modernità, naturalmente, un video del genere, un cinema, uso questo parolone, del genere è piuttosto superato, ma non lo so, a ripensarci io ripenso a quella giornata in maniera assolutamente positiva, al risultato finale, come qualcosa che sinceramente mi piace, qualcosa che io non sono un regista, non sono un cinefilo assolutamente enorme, mi piace il cinema per carità, però non così tanto da voler studiare per impararlo, però ho voluto provare a catturare queste sensazioni, questo messaggio, che sulla carta potrebbe essere molto semplice, cioè ovviamente anche solo con la mia descrizione probabilmente avrete capito su cosa volevo andare a parare. Però ho voluto raccontare un po' la malinconia, un po' il ricordo, un po' il voler a tutti i costi aggrapparsi comunque a quella spensieratezza che vorremmo a tutti i costi mantenere viva nel corso della nostra vita. Insomma, ho cercato di mantenere questo tipo di sensazioni ai tempi quando ho montato quel video. Gianluca è stato fantastico perché secondo me ha fatto il lavoro egregiamente. Quello è stato un video un sacco pieno di emozioni, è vero. Dici le tue due sensazioni su quel video. Penso quel video è stato veramente veramente bello. Vabbè, sempre fatto con mezzi e con la testa di 12 anni fa quasi. Non so se era 2008. No, beh, forse era 2012, con la cazzata. Non mi ricordo, dovremmo andare a vedere l'anno. Comunque, fatto un bel po' di tempo fa. E è un messaggio, volevamo lasciare un messaggio forte, e non mi ricordo se in quel periodo era successo qualcosa, se era... Ma io credo di no, credo che fosse nato così dal niente. Forse sì, era partito tutto da un discorso che avevamo iniziato a fare in autobus mentre tornavamo a scuola. Poi dopo, questo non me lo ricordo, e mi ricordo che ne cominciamo a parlare, vogliamo fare questo video, stavamo a parlare della patente lì. È partito tutto da quello che mi posso ricordare, dal fatto che parlavamo di quanto era il limite limite alcolico, non so se alcolico o alcolemico, forse, beh, comunque il limite per non farti sequestrare la patente. E da lì dopo i nostri cervelli, comunque avevamo più di un'ora e mezza di strada ad affrontare con l'autobus per tornare a casa. I nostri cervelli sono partiti, abbiamo cominciato un po' a divagare, la cosa già presa, e abbiamo detto, cazzo, andiamo a girare il pomeriggio. Addirittura mi ricordo che andai a cercare giacca, cioè, la giacca e la cravatta, il vestito buono a matrimonio, andai a cercarlo in soffitta, sopra il forno. E mi ricordo, ecco perché non mi ricordo, perché comunque il periodo mi sembra, non voglio dire una cazzata, ma era sempre quello di carnevale, quindi febbraio-marzo, perché mi ricordo che dopo che avevamo fatto tutto questo video andammo al forno a mangiarci due ciambelline fritte. In giacca e cravatta, però. In giacca e cravatta, quindi ci appuzzammo di fritto come due stronzi, però non ce ne fregava niente. E fu un video veramente... che se... cioè, anche riguardandolo adesso, comunque è un video che a me lascia molto significato, perché voi direte, grazie al cazzo l'hai fatto tu. Però ti apre molto, secondo me, cioè a me ha aperto molto... molto il cuore, devo dire, perché è un video che mi ha lasciato qualcosa. Sì, a me pure, cioè, ripeto, io lo riguardo sempre con molto affetto quel video, perché appunto forse è il nostro video più riuscito. E per quello che secondo me, cioè, io la definisco la mia opera d'arte, cioè non è sicuramente la più significativa della mia vita, non, anche se la più significativa io credo di volerla ancora cercare di realizzare, fare, sì, esatto, non penso di voler ancora dire che ne ho fatta una così tanto significativa, quindi sì, per me quella è la prima e più significativa opera d'arte fatta per ora, per tutta una serie di ragioni, non tanto per la riuscita intrinseca del video stesso. Io ripeto, vi invito a guardarlo, punto, perché secondo me non perché ci fa pubblicità, ok, per tanto noi, sì, perché tanto ormai quel canale non è monetizzato, quindi non ci facciamo dei soldi. Non pensiamo di tornare a fare YouTube per adesso sicuramente, però anche per avere un vostro feedback, per guardare la YouTube di allora, per guardare come eravamo noi allora, perché un po' più sbarbatelli, un po' gli sbarbatelli della vita, esatto, avevamo già la barba comunque, beh, sbarbatelli nel senso di giovanotti comunque c'è. E però così, anche solo per la curiosità di vedere che cosa avevamo realizzato, poi magari vi farà schifo a voi, cioè non pensate che vi stiamo vendendo chissà quale rarità, chissà quale perla rara, però così, cioè, se volete capire i motivi per cui siamo così affezionati a questa opera, fatelo, andatelo a vedere e fateci sapere naturalmente cosa ne pensate. Allora, siamo arrivati a 1 ora e 12 minuti. Voi, Lucrezia è ritornata nel mondo dei sogni. Ciao, e sono tornata, ditemi. No, tranquilla. Siete tornati nei vostri ricordi, ho lasciato perdere. Vabbè, potevi stare qui ad ascoltare, voglio dire. Cioè, ci avresti dato un feedback in più, insomma, ci avresti detto cose. Sì, mi stai facendo venire i sensi di colpa. Spero che tu ne abbia tanti, Lucrezia. Sì, io canto i sensi di colpa. Ottimo. Sì. L'ansia è lo sport più completo, come dicono i The Pills. Vivo un quarto d'ansia alla volta. Un quarto d'ansia alla volta. Allora. Che cosa vuol dire? No, se avevi un argomento a piacere che volevi introdurre. Vogliamo parlare di Matti il biondo? No, ce la posso fare. Per favore, di parlare? Conosci Matti il biondo? No, dopo un riccio. Ah, ok, ecco, sì, il bambino quello... Ma non si può ricordare una persona in base a una battuta, cazzo. Devi sapere, punto. Cioè, quello ragazzo, ecco, è la persona più... Cioè, vieni qua, Lucrezia, non urlare. Vieni, cioè, qua. Che tu devi capire che io ho la testa piena come Leo di battute che di Aldo Giovanni e Giacomo, di Abba Tantuono, di Bud Spencer e Terence Hill. Addio. E quindi addio. Questa nuova forma di comicità di questa nuova era non riesco a assimilarla, capito? Però Matti il biondo, cosa abbiamo da dire di Matti il biondo? Ma di quel poco che ho visto di quel ragazzo, devo dire che è un ragazzo educato che fa video di cose di suo interesse. La dice con tutta la pacatezza e l'educazione del mondo, che penso la cosa più più alternativa di, esatto, adesso. Anticonformista veramente che si possa trovare in questo secolo. Educato, pacato, distaccato. Ha un buon lessico. Ha un buon, cioè, cavolo, che gli vai a dire? È proprio il classico bravo ragazzetto. E parliamo di uno che non può ancora guidare le macchinette, quelle per chi non ha. Non so neanche quanti anni ha sto ragazzino. 12 anni. Credo che. Credo che a 12 anni penso già che sta. Siamo sotto al Gran Sasso, signori, quindi è ovvio. Penso che testa che ha già quel ragazzo. Quindi. Lucrezia, tu mi parlavi prima. Tu dicevi prima che è andato da Barbara D'Urso. Sì. Tu hai visto Matti il Biondo, questo bambino? Io ho visto solo uno sketch, proprio brevissimo. Ce lo racconti un attimo, poi lo commentiamo assieme e poi magari chiudiamo questo episodio. Io ho visto soltanto la D'Urso che ha fatto tipo una specie di storia, ecco, sto arrivando, ha fatto questa specie di storia dove si vede Matti il Biondo che dice la sua famosa battuta, godo come un riccio, e la D'Urso che stava lì, però mi è sembrato un po' strano che quel ragazzino con quell'intelletto di andare a quel programma, cioè nel senso, sembrava un po' strano. Dici prestarsi a questa TV un po' discutibile. Esatto, molto discutibile direi, perché io no, per quanto io possa essere stupida, non arrivo ai livelli nel guardare queste cose, perché mi stanno sul cazzo. I soldi fanno andare l'acqua per Nenzù, in dialetto, che in italiano sarebbe anche i soldi fanno andare l'acqua in verticale. In su. Verticale in su. In su. In su. Perché se no sarebbe in basso, esatto. Quindi in giù. Vabbè. E poi sono venuta a sapere che questo ragazzino, questo Matti Biondo, credo si chiami Matteo, ma non ne sono sicuro. Questo Matteo. Non Mattia. Non lo so, Dio, sai. Credo Matteo, però non sono sicuro. Sai che ogni volta che sento il nome Matteo penso a bombola! Bombola! Scusate signore, questa è digressione sui miei parenti, va bene, dicevi Grecia. E niente, nella sostanza questo ragazzino ha, no, insultato, però ha lasciato un commento molto sottile riguardo a Barbara D'Urso dicendole tu mi stai prendendo in giro riguardo a quello che ho detto, ma non pensare mica che io sia una persona stupida, cioè non sono nato ieri, ma cioè è anche un po' palese, cioè io avrei pure un po' timore di parlare con questo bambino. Insomma, ha fatto un po' Joaquin Phoenix di Joker con Robert De Niro, praticamente. È divertente parlare con quel bambino invece. No, io sono sicura che è divertente parlare con quel bambino, ma non ci andrei contro, perché è un ragazzo che è un bambino che praticamente, se continuerà per questa strada, praticamente potrebbe sottomettere l'intera umanità. Per citare un po' Proietti, la storia del Cavaliere Nero. No, vabbè, comunque sia la sua. Io ho visto un'intervista delle Iene, che praticamente il presentatore, diciamo, la persona che è andata a intervistarla si era innamorato completamente di questo ragazzino, perché non in maniera. Non letteralmente. Allora, credo che tu però faccia riferimento non alle Iene, ma ad un canale YouTube. Perché io stavo proprio pensando a questa intervista. Che no, no, un canale YouTube, no, le Iene, giusto? Sì, giusto. Ve lo segnaliamo. Ma intervista in stile Iene. Sì, in stile Iene, ve lo consigliamo, esatto. Il canale YouTube è molto carino, si chiama Alici come prima, che appunto il proprietario di questo canale, il creatore, è andato proprio a cercare Matti il Biondo e ha avuto una bella conversazione con questo ragazzo, assolutamente non ironica. Assolutamente magari, non ironico, magari nelle, non nelle premesse c'era un po', diciamo, questa ilarità, ok, molto bonaria, per niente offensiva nei suoi confronti, perché più che altro perché c'è sempre questa cosa che non ti aspetti che un bambino di 12 anni, un ragazzino, parli in questa maniera, quindi ci resti un attimo, capito, un attimo così interdetto, però andando avanti con l'intervista diventa sempre più interessante in realtà la cosa, è sempre meno strano a sentirlo parlare, perché un attimo entri proprio nella logica che questo ragazzino è semplicemente più maturo per l'età che dimostra. Esatto. E però anche questa intervista si è comportato molto bene, alcune delle sue frasi sono diventate dei meme, ma non quei meme che lo rendono ridicolo, perché per esempio c'è il pezzo in cui parla appunto del contatto fisico, che è semplicemente quel pezzo senza tagli, senza cose, è stato proprio preso in blocco e è stato riutilizzato dalle persone per dire attraverso dei meme per dire io sono così, ok, anch'io sono così, anche a me non piace il contatto fisico, per me che io ti tocco un attimo così va bene, però se io ti sto appiccicato non va bene, insomma andatevelo a vedere, è difficile che non abbiate visto un meme su Facebook o su qualsiasi altro social di dove c'è appunto Matti il biondo, l'ha spiegato in una maniera, cioè l'ha spiegato pure bene, cioè ragazzi è più bravo lui che io a spiegare cose, cioè ho 23 anni suonati, proprio perché sono un po' handicappato. Ma infatti, cioè, ripeto, io Patti secondo me è un, allora, involontariamente è diventato un fenomeno del web, ovviamente, però è una di quelle cose che non amo, cioè non puoi definire trash, perché appunto non lo è, cioè manca di qualsiasi componente trash che lo renderebbe trash, è insolito sicuramente, però è di quell'insolito che sì, fa sorridere, ma non è ridicolo, non è volgare, è per tutti e ti dà, ed è di quella simpatia genuina che fa piacere, perché ti suscita magari del riso, però non partendo dal ridicolo, dal voler ridicolizzare una persona, ma anzi magari anche alla fine, arrivando alla fine del discorso, anche a stimare il creatore magari di una frase che ti ha generato del riso. Comunque questa è la mia opinione su Matti il Biondo, assolutamente fuori contesto, questa puntata è stata un saltare, siamo saltati da un argomento all'altro, quindi ci sta. Ecco, puoi fare una chiusa, Gianluca? Una chiusura, devo dire che comunque parlare di anche vecchi ricordi è una cosa che mi suscita sempre delle bellissime emozioni, perché posso dire che di essere fortunato, perché sia io che Leo, nel bene o nel male, siamo stati sempre grandi amici anche da piccoli. Penso non ho ricordi di noi che litighiamo, perché come abbiamo detto anche all'inizio del video, cioè all'inizio del pod qualche minuto fa, ci siamo sempre detti tutto sulla faccia, come pensavamo le cose, anche se tante volte magari potevano essere cose scomode, quindi li siamo sempre chiariti subito. Assolutamente. E posso dire che pensare a questi ricordi veramente mi porta a dei bei ricordi felici di un'infanzia, adolescenza, comunque che adesso non c'è più, perché siamo diventati grandi, purtroppo la vita è un po' una fregatura perché cresci, siamo diventati grandi e non abbiamo più lo stesso tempo da passare insieme, perché comunque il lavoro, gli impegni della vita non ce lo consentono come prima. Quindi approfittare di questi minuti, di questi momenti, anche per dire cazzate su un podcast, secondo me è bellissimo e niente, spero sempre di poterne fare altri e tanti altri ancora. Sì, anch'io, in realtà, ripeto, creare Morfeo secondo me è stata un'ottima cosa, perché mi dà la possibilità di fare quello che mi pare in un contesto che prevede che io faccia come mi pare. Il podcast sì, è libertà, io potrei stravolgere paradossalmente il mio format in qualsiasi podcast che io posso fare nella mia vita e fare quello che mi pare, ma ovviamente sarebbe un suicidio cambiare da un giorno all'altro senza un piano, comunque un senso in questo cambiamento, mentre Morfeo è nato proprio come un qualcosa di spontaneo, un qualcosa che io faccio per me stesso, per parlare, per farvi, per portarvi assieme a me, se vogliamo, perché qui nel frattempo io ancora mi sto pisciando addosso, molto bene, cercando un autogrill, amore, e dicevo scusate, mi sto letteralmente, ma anche questo è bello, perché è come se voi foste assieme a noi, ok, come se noi immaginate di usare questo podcast per farvi compagnia in macchina, ok, per rimanere svegli assieme a noi, ogni tanto sbuco io che dico che devo pisciare. E ogni tanto hai quello lì che dice devo pisciare, oppure devo fare questo, devo fare quello, devo fare voglio un caffettino, voglio un opossum, capito? Che ne so. Gianluca, voglio un opossum. Senti, opossum, dacci anche tu la tua opinione su questa esperienza da podcaster. Allora, questa è la mia prima esperienza da podcaster, sinceramente. Devo dire che non è per niente male, perché alla fine ti prende, se alla fine si fanno dei discorsi molto collettivi, che parla un po' di te, parla un po' in generale, parla un po' della vita, un po' di tutto. E quel che posso dire in questo momento è, Gianluca, dov'è l'acqua? Perché ho sete. È qui a fianco alla tua gamba. Grazie. E niente, detto questo, per me io lo rifarei spesso, più spesso, se tu venissi sempre con noi, caro Leo. Magari potrei fare un sacco di podcast su Morfeo, tre volte che torno a Macerata, magari stanco dopo gli allenamenti di rugby. Se ci fosse tu sarebbe, ogni giorno sarebbe una puntata, faremmo almeno 4 puntate a settimana. Allora te la faccio una domanda bellissima. Domenica gioca a Pisa, Gianluca non gioca, vuoi venire con noi? Domenica? Non lo so. Mi farei sapere? Ti farò sapere. Soprattutto, ti ricordi cosa diceva Sonnino per culo? Pisa merda. Pensavo boia te. Però Pisa merda era anche la seconda frase più ripetuta. Sì, effettivamente, e aveva generato non pochi problemi ai toscani, che sono molto più campanilistici di noi marchigiani. Vabbè, se il video era fatto livornesi era normale che davano contro il Pisa. Mi sembra giusto. E su questa nota abbiamo raggiunto finalmente 1 ora e 26 minuti in questo podcast. Io non posso fare altro che ringraziare gli abitanti di questa automobile, quindi grazie Lucrezia, grazie Gianluca per aver partecipato a Morfeo, a questo primo episodio ufficiale della versione on the road di Morfeo. Spero che il prossimo episodio sarà fatto magari nel mio studio con altri ospiti magari che potrò contattare, però non vi preoccupate, le rubriche on the road con Marco Palmoni. Faremo una puntata con Marco Palmoni, conoscerete Marco Palmoni, sarà una puntata memorabile. Ovviamente Gianluca sei invitato nella puntata quella con Marco Palmoni. Probabilmente riuscirò a coinvolgere anche Arianna, che conoscerete in podcast, e mi sono perso. Dicevo, oltre naturalmente alle puntate che voglio organizzare in studio, torneranno sicuramente le puntate on the road, perché c'è sempre bisogno di rimanere svegli per strada, e il podcast è un'ottima occasione per farlo, perché parlare di noi, parlare del tutto in generale, tira fuori sempre il meglio e il peggio della nostra persona, e quindi comunque tira fuori la persona che siamo nella nostra interezza, e questo è bene, è ciò che siamo ed è bene così. Quindi vi ricordo che potete seguirmi su Leo Varga, un podcaster, su Facebook e su Telegram, naturalmente, il mio canale e la mia pagina ufficiale. Potete scrivermi direttamente a @Varian su Telegram, scrivermi una mail a varian@discale.it se volete appunto contattarmi privatamente, sentire il mio... Nel frattempo... LOL. Lucrezia, salva questa immagine e mandamela. E ovviamente metterò l'immagine che fa ridere un sacco Lucrezia nelle note di questo episodio, perché ci sta la grandissima. Grazie Lucrezia. E che vi devo dire, i contatti vi li ho dati, seguite il canale YouTube Varian se volete appunto seguire da lì i podcast, e con le risate di Lucrezia e Gianluca che trattiene le sue, perché è un uomo stoico, un uomo bellissimo. E io vi saluto e appunto vi do l'appuntamento al prossimo podcast che ascolterete qui sul canale appunto Leo Varga Podcast. Ciao.